Questo po' dal popolo è particolarmente irritato perché dà testimonianza del fatto che non è sufficiente a Facebook bannare, cancellare, spostare in basso in maniera completamente arbitraria qualsiasi tipo di post, anche assolutamente con nessun contenuto di carattere, come dire, diciamo, riservato a maggiorenni, eccetera, ma, oppure addirittura post che non hanno nulla a che fare né con la politica internazionale né con eventi tragici, guerre e quant'altro. Non soltanto banna e cancella post di carattere politico, eccetera, ma anche post i più innocenti del mondo, per esempio quelli che danno notizie di una rivista letteraria o quant'altro. Ma in generale Facebook dovrà in qualche maniera rispondere del proprio shadow banning e del proprio comportamento nei confronti delle notizie che vengono dalla fronte palestinese su Gaza, su ciò che accade in Cisgiordania, eccetera. A parte questo, che comunque è una cosa già di suo estremamente grave, da un paio di giorni, qualcosa di più di 24 ore, in questo momento sono le 17:30 del 12 settembre 2024, Facebook non mi permette di caricare immagini. Non mi permette, cioè, sembra come se attivasse una sorta di buffer che trattiene le immagini e se gli garbano le pubblica, altrimenti no. Potrebbe trattarsi di un problema tecnico, potrebbe trattarsi di qualcosa di cui Facebook mi ha informato, io non me ne sono accorto, oppure non mi ha informato e sta semplicemente, diciamo, precensurando quello che io inserisco sul piano appunto delle immagini direttamente come post, mentre sembra non censurare o non accorgersi di ciò che viene postato sotto forma di link o di condivisione di immagini altrui che vengano da Instagram, per esempio, o da altre sedi e luoghi. Allora, siccome è assolutamente necessario e indispensabile continuare a dare informazioni sulla situazione che si sta creando, che si è creata e che sta andando avanti in maniera atroce con bombe che fanno crateri profondi 9 metri in mezzo a campi profughi a Gaza, e visto che appunto le informazioni direttamente, le immagini direttamente, i video direttamente non mi vengono concessi su Facebook, e comunque Facebook è in ogni caso un bacino a cui no, al momento non mi sento di rinunciare completamente perché i social alternativi mi permettono senz'altro di raggiungere un buon numero di persone, ma non le più di 5.000 che al momento comunque seguono il mio account. Bene, ho pensato di, visto che appunto la connessione Instagram Facebook è estremamente funzionante, ben funzionante, di aprire un canale Instagram, così come ho già un canale YouTube, dove anche lì però c'è una certa occhiuta censura, quindi sto diciamo considerando di aprirlo su un'altra piattaforma, di aprire un canale Instagram solo ed esclusivamente per condividere su Facebook, in realtà non importa che non venga seguito su Instagram, sulla Palestina, perché il contatto poi, il reblog di quello che metto su Instagram compare sulla mia bacheca Facebook. Poi probabilmente verrà sottoposta anche questa a banning, shadow banning, però perlomeno mi è possibile pubblicare questi materiali. Ovviamente questo non significa che io sia contento che questo debba essere lo stratagemma da utilizzare per poter avere a che fare con un minimo di decenza nei rapporti con Facebook. Ed è evidente che altri social sono comunque da me coinvolti in questa attività di informazione e controinformazione, però diciamo non può sentirsi Facebook libera da questi materiali. Io comunque glieli impongo in qualche modo. E quindi invito chi voglia a seguire l'account Instagram che ho appena avviato, oppure continuare a seguire tranquillamente il mio account, dove si spera che appunto non ci sia un ban sui materiali che io posto su Instagram e di conseguenza appunto anche sulla mia bacheca FB.